Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per convivere con il virus sino al vaccino, per riaccendere tutti i motori della nostra economia, per affrontare i gravi problemi sociali che vediamo crescere nel nostro Paese, non dobbiamo arretrare di un millimetro sulle misure di prevenzione. In coerenza con questa impostazione, il Governo intende adottare, a seguito di questo passaggio parlamentare, un nuovo DPCM che proroghi le misure attualmente vigenti sino al 31 di luglio. Lo avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro della Salute Speranza, che ha annunciato appunto che le misure anti-Covid dell'ultimo DPCM, dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio, vengono quindi prorogate sino al 31 luglio. Che cosa comporta e che ne sarà invece dell'allungamento dello stato di emergenza che era stato più o meno annunciato qualche giorno fa dal Presidente del Consiglio Conte? Ne parlerò qui a Effetto Notte con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, ma ci sarà poi, anche tornerà qui a Effetto Notte, il portavoce dei funzionari di polizia per sottolineare alcuni aspetti, alcune misure per cui, se non vengono ottemperate, si rischia ancora la sanzione. Poi alle 22, fra i vari temi, questo è importantissimo, anche questo è scottante, quello delle concessioni autostradali, alle 22 è previsto il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe portare, si pensa, a una decisione più o meno definitiva rispetto alla revoca o meno delle autostrade ad Aspi, che sapete fa capo alla famiglia Benetton. Insomma, una puntata veramente molto piena di argomenti pregnanti e ponderosi e comunque, come sempre, interessanti. Naturalmente non perdete neanche un minuto di Effetto Notte. Se volete scrivere i vostri commenti, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure i WhatsApp al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, il Twitter di Effetto Notte, se volete seguire alcune delle dichiarazioni più importanti, altrimenti il Twitter è Roby con la Y, lineetta bassa, Giordano. La situazione relativa al Covid-19 in Italia: calano i contagi, 114 i nuovi positivi da ieri, mentre i morti sono stati 17 contro i 13 di ieri. Le misure anticoronavirus vengono prorogate sino al 31 luglio. Il ministro Speranza in aula sottolinea: non possiamo abbassare la guardia. Concessioni autostradali, Consiglio dei Ministri alle 22, diverse le soluzioni possibili, Conte spinge per la revoca ad Aspi. Migranti, le persone sbarcate in Calabria trasferite al Celio, giovedì la ministra dell'Interno in visita a Tripoli. Il coronavirus nel mondo, milioni di nuovi casi, milioni di nuovi in lockdown, la retromarcia anche negli Stati Uniti. 5G, la Gran Bretagna esclude Huawei dalle forniture per la nuova rete. Partiamo quindi dalla situazione relativa al coronavirus nel nostro paese. Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 169 di ieri. Le vittime sono invece 17 rispetto alle 13 di ieri. I casi totali salgono così, per quanto riguarda i contagi, a 243.344 dall'inizio della pandemia, mentre le vittime in Italia sono 34.984. E questo pomeriggio il ministro della Salute Speranza ha ribadito che l'esecutivo non ha ancora deciso sulla proroga dello stato di emergenza. Speranza però ha illustrato in aula al Senato il nuovo DPCM di proroga al 31 luglio delle misure anti-Covid. È del tutto evidente che non possiamo abbassare la guardia. Non dividiamoci su questo, vi prego. Siamo fuori dalla tempesta, ma non siamo ancora al riparo. La battaglia non è vinta, l'emergenza non è finita. Lo ribadisce più volte il ministro della Salute Speranza nel suo intervento, durante il quale annuncia la proroga al 31 luglio delle misure di restrizione anti-Covid, obbligo di mascherina al chiuso, divieto di assembramento, protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena, divieto di ingresso, quarantena per chi arriva da paesi extraeuropei e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine. Quest'ultima misura spiega strettamente correlata alla grave situazione di contagio in un numero crescente di aree del mondo, un rischio che, unito alla presenza di focolai interni, non permette di abbandonare la linea della prudenza. Sono rischi non teorici ma concreti che, muovendoci con grande prudenza, possiamo ridurre sensibilmente ma mai azzerare del tutto. E poi il capitolo scuola: senza sarà riapertura di tutte le scuole, non saremo mai veramente fuori dal lockdown, dice Speranza, confermando test sierologici per tutto il personale. Nessuna decisione infine su un'eventuale proroga di alcuni mesi dello stato di emergenza. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E per parlarne, come vi dicevo, sarà ospite tra poco qui Effetto Notte la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, e per alcuni aspetti per cui sono previste ancora delle sanzioni, magari qualcuno se lo dimentica, ci sarà il portavoce dei funzionari di polizia Laquaniti. Adesso passiamo a un altro tema, che è quello scottante delle concessioni autostradali, rinviato alle 22 di stasera il Consiglio dei Ministri, che dovrà decidere sulla questione autostrade. Maggioranza non compatta sulla strada da seguire, e mentre emerge una lettera della ministra De Micheli che invitava il Presidente del Consiglio a decidere, datata lo scorso 19 marzo, anche la Fondazione CRT, che detiene il 4,5% di Atlantia, invita il governo a tenere conto delle ricadute di una eventuale revoca. Due anni dopo il crollo del Ponte Morandi, il governo questa sera proverà a mettere un punto alla vicenda della revoca della concessione autostradale ad Aspi, la società controllata da Atlantia che fa capo alla famiglia Benetton. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sembra intenzionato a procedere con la revoca, reclamata a gran voce dai 5 Stelle. Sul tavolo c'è anche la carta del commissariamento. È l'unico modo per avviare la revoca, ma senza perdere un posto di lavoro, dice il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancellieri. E c'è anche l'ipotesi che nella futura società che gestirà autostrade torni lo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti. Una revoca secca della concessione dovrebbe fare i conti con un contenzioso legale e il risarcimento della famiglia Benetton, che potrebbe essere molto più salato dei 7 miliardi previsti dal governo lo scorso anno nel decreto mille proroghe. Dal complicato dossier spunta anche una lettera inviata a marzo dalla ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, al presidente del Consiglio. Considerata la complessità della vicenda, suggeriva la ministra, sarebbe opportuno valutare una soluzione transattiva. Sulla vicenda fa sentire la propria voce anche la Fondazione CRT, che di Atlantia ha il 4,5%. Comprensibile la posizione del governo, dice, ma è necessario tenere in considerazione tutte le possibili ricadute, tra cui quelle occupazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di tutti questi aspetti, queste implicazioni, insomma, della questione autostrade, delle concessioni autostradali, torneremo a parlare nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Ma il nodo autostrade è solo quello più evidente. Nella maggioranza infatti manca l'accordo su non pochi temi, tra cui stato di emergenza e fondi del MES. Ancora un consiglio dei ministri notturno, ancora un probabile rinvio di una decisione su Atlantia, magari camuffata da commissariamento. Il governo giallo-rosso sembra sempre più in difficoltà, incapace di prendere una decisione univoca con decreti molto spesso approvati salvo intese. Così si intensifica il lavoro del Quirinale in pressing anche sulla revoca d'Atlantia, sconsigliata dall'Avvocatura dello Stato, e al veto sui Benetton dei 5 Stelle si contrappone l'avviso di Italia Viva sul fatto che potrebbe essere un boomerang. Ma non c'è soltanto questo a preoccupare il Presidente della Repubblica Mattarella. La proroga dello stato d'emergenza al 31 ottobre provoca l'ira dell'opposizione, che non vuole un altro DPCM, ma vuole votare in aula. E se non bastasse, si prepara la battaglia in Europa con i paesi del nord, che pongono paletti all'utilizzo dei sussidi a fondo perduto del Recovery Fund, e il PD che spinge per l'utilizzo del MES con il no dei 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di Europa, in vista del vertice che si apre venerdì, è tornato a parlare il primo ministro olandese Mark Rutte. I sussidi a fondo perduto del Recovery Fund, dice, dovrebbero comportare condizioni molto rigide. Questo è l'unico modo per accettarli, ha detto Rutte in un'audizione al Parlamento nazionale. I sussidi potrebbero arrivare solo se saranno effettivamente fatte riforme serie, ma non credo che questa idea sarà accettata, ha aggiunto il primo ministro olandese. All'estero ancora, nel mondo tornano le chiusure in Iran dopo l'aumento di casi e vittime per coronavirus. Moschee, istituzioni educative, centri culturali, sale da cerimonia, palestre, saloni di bellezza e bar resteranno chiusi per una settimana a Teheran e in altre 10 province ad alto rischio. In India torna il lockdown totale nello stato di Bihar. In Francia dal 1 agosto sarà obbligatorio l'uso delle mascherine nei luoghi pubblici chiusi. In Andalusia obbligo di mascherine in spiaggia. E ritromarcia anche negli Stati Uniti, dove gli stati che stavano già riaprendo sono costretti a chiudere di nuovo gran parte delle attività essenziali. Questo a partire da California, Texas e Florida, dove in una sola giornata si sono registrati oltre 30.000 nuovi casi, la metà del dato nazionale. Il contagio è in aumento in almeno 35 stati e la contea di Miami emerge come il nuovo epicentro della pandemia, mentre Los Angeles è a un passo da diventare zona rossa. A New York, intanto, dopo la prima giornata di zero morti a causa del coronavirus, il governatore Andrew Cuomo ha detto di temere seriamente una seconda ondata causata sia da chi arriva dagli stati a rischio, sia appunto per in mancanza di rispetto delle regole all'interno. Anche negli Stati Uniti, il governo americano ha eseguito la prima condanna a morte federale dal 2003, dopo il via libera della Corte Suprema. Daniel Lee, 47 anni, un suprematista bianco di Yukon, Oklahoma, l'esecuzione è stata portata a termine con un'iniezione letale nella prigione di Terre Haute in Indiana. Era accusato di aver ucciso negli anni 90 una famiglia in Arkansas nell'ambito di un piano per realizzare una nazione solo bianca. Non l'ho fatto, state uccidendo un innocente, ha detto prima dell'esecuzione. In Egitto, il giorno dopo la decisione del tribunale egiziano di prorogare di 45 giorni ancora la detenzione preventiva di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna arrestato in Egitto perché accusato di propaganda sovversiva e di attivismo mediatico, crescono le preoccupazioni sulla sua salute. È morto infatti Mohamed Monir, giornalista egiziano che era detenuto nello stesso carcere di Zaki dove ha contratto il coronavirus. Monir aveva 65 anni e soffriva di diabete e di pressione alta. Era stato rincarcerato il mese scorso con l'accusa di diffondere notizie false e di abusare dei social media. È una notizia terribile, dice il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Nuri, ma non inaspettata. Un giornalista che mai avrebbe dovuto mettere piede in carcere, dice, si è ammalato di Covid-19 per poi morirne in ospedale. Il rischio contagio, dice Nuri, nelle carceri come quella di Tora dove Zaki è detenuto è altissimo. Cosa aspetta il governo italiano per sollecitare il rilascio di Patrick? Di nuovo in Italia, con la cronaca, proseguono le indagini dei PM di Milano sul caso della fornitura da 500.000 di euro di camici e altro materiale alla regione Lombardia. Dai primi atti emergerebbe l'estraneità della moglie del presidente Fontana. Roberta Dini, moglie del governatore lombardo Attilio Fontana, non avrebbe avuto alcun ruolo attivo nel caso dei camici e altri dispositivi di sicurezza venduti per 500.000 di euro a Regione Lombardia dall'azienda Dama, di cui detiene una quota del 10% e gestita da suo fratello Andrea. Indagato per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, assieme al dimissionario direttore generale della centrale acquisti Aria, Filippo Bongiovanni. Intanto, tra le carte raccolte nell'inchiesta, c'è una mail in cui Dama propone un'integrazione della prima fornitura su indicazione dell'assessore lombardo Raffaele Cattaneo, già sentito come teste nell'inchiesta e che avrebbe consigliato ad Aria la società Dama. Elementi che rafforzano l'ipotesi della procura, la quale ritiene che si trattò di un'operazione commerciale svolta in conflitto di interessi e poi trasformata in donazione il 20 maggio, dopo che la trasmissione Report iniziò a interessarsi del caso. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al capitolo migranti. Trasferiti nel pomeriggio al Celio le 13 persone positive al Covid-19 che erano state spostate in una struttura di Amantea dopo l'arrivo sabato scorso a Roccella Ionica. Pubblicato un nuovo avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il noleggio di navi da adibire a strutture provvisorie per l'assistenza e la sorveglianza sanitaria di migranti soccorsi in mare. È stato deciso il trasferimento a Roma all'ospedale militare Celio per i 13 migranti positivi al Covid che dopo il loro arrivo sabato a Roccella Ionica erano stati spostati ad Amantea nel Cosentino, provocando le proteste con tanto di blocchi stradali dei residenti. I 13 facevano parte di un gruppo di 70 cittadini del Pakistan che dopo lo sbarco sono stati suddivisi in varie località della Calabria. La presidente della regione, Iole Santelli, pur affermando di apprezzare il gesto del Viminale, torna ad invocare, oltre ad un controllo delle coste, unità navali destinate all'assistenza e alla sicurezza sanitaria dei migranti. Navi per il cui noleggio, andata deserta la precedente gara, è stato intanto pubblicato un nuovo avviso che scade il 16 luglio, avverte il Viminale, sottolineando che si tratta di una procedura di urgenza. Intanto è ancora la deriva a sud di Lampedusa, la barca con circa 50 migranti a bordo, segnalata ieri da Lanfon, ma non soccorsa perché in zona sarmaltese dalla nostra guardia costiera che era sulla scena. A Lampedusa intanto è arrivata da Palermo la macchina per l'analisi rapida dei tamponi che verrà usata per i test sui migranti. Proprio per affrontare il nodo dell'impennata di sbarchi delle ultime settimane, la ministra dell'interno Lamorgese sarà dopodomani in Libia, Tripoli, in preparazione anche una sua visita ufficiale in Tunisia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Svolta del governo britannico, il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei è stato escluso dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito dal 31 dicembre. La decisione è stata formalizzata dal Consiglio di Sicurezza Nazionale britannico sotto la presidenza di Boris Johnson e annunciata in Parlamento, rovesciando il via libera a Huawei dato nei mesi scorsi. Da Londra, Johnson si riallinea così alla richiesta americana a costo di affrontare le minacce di ritorsioni commerciali in tempi di Brexit da un partner del peso di Pechino, già furiosa per lo scontro col Regno Unito sul dossier Hong Kong. Per chiudere il calcio, Serie A maschile di nuovo in campo stasera con l'anticipo della 33esima giornata. Alle 21.45 a Bergamo si affrontano Atalanta e Brescia, partita dal significato particolare vista la rivalità che divide le due città, avvicinatesi però in questi mesi a causa della comune battaglia per contrastare la pandemia. Ne parleremo poi nel corso di questa puntata. Adesso spazio agli aggiornamenti per chi sta viaggiando, perché poi bisogna subito affrontare alcuni temi con gli ospiti. Vi ricordo per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Quante notizie, come sempre, da approfondire con gli ospiti tra poco e poi quelle che avete sentito nella sintesi della giornata ogni sera qua dalle 21 alle 22. Roberta Giordano per voi a farvi questo quadro il più possibile chiaro, esauriente, spero, le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. E poi per i vostri messaggi, commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349-238-6666, dove per esempio anticipo un ascoltatore, l'argomento che però faremo poi nel prossimo blocco, dice: cara Roberta, è una politica quella dei Giacobini 5 Stelle, dice, orientata solo alla vendetta e non al bene comune. Parla evidentemente di autostrade, questo è il suo punto di vista. Dice: questo è il risultato di incompetenti pieni di pressapochismo. E Claudio, ne parleremo poi dopo. Mentre vedo un'agenzia di adesso, dell'ANSA, che dice che la Casa Bianca ha annunciato una conferenza stampa di Donald Trump, presidente americano, alle 17, ore 23 in Italia. Il presidente parlerà di Cina e Hong Kong. Oggi per Trump scadono i termini per firmare le sanzioni approvate dal Congresso dopo la stretta cinese sull'ex colonia britannica. Vedremo un po' che cosa deciderà. Per convivere con il virus sino al vaccino, per riaccendere tutti i motori della nostra economia, per affrontare i gravi problemi sociali che vediamo crescere nel nostro paese, non dobbiamo arretrare di un millimetro sulle misure di prevenzione. In coerenza con questa impostazione, il Governo intende adottare, a seguito di questo passaggio parlamentare, un nuovo DPCM che proroghi le misure attualmente vigenti sino al 31 di luglio. Quindi ufficiale, avete sentito anche all'inizio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, le norme anti-Covid contenute nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarebbero scadute oggi, vengono prorogate al 31 luglio, come spiegato oggi appunto in Parlamento dal Ministro della Salute Speranza, che ha illustrato il nuovo DPCM di proroga appunto al 31 luglio delle misure anti-Covid. Il perché lo ha spiegato in vari passaggi oggi in Parlamento, ma in estrema sintesi il concetto è questo. Noi oggi siamo fuori dai giorni più drammatici della tempesta. Viviamo in un mare poco mosso, ma non siamo ancora in un porto sicuro. Non siamo ancora al riparo. Per due motivi. Il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare. Siamo dentro una fase di convivenza con il Covid, in un contesto nel quale, aumentando le attività e liberalizzando gli spostamenti, aumentano inevitabilmente le probabilità di incontrare il virus. Lo testimoniano i numerosi focolai attivi che dobbiamo essere sempre più rapidi ad individuare ed isolare con il massimo della determinazione e senza alcuna incertezza. E quindi, dice ancora il ministro Speranza, la partita non è ancora vinta contro il coronavirus. La partita non è ancora vinta. La partita è ancora in corso. La prima valutazione che dunque offro all'Aula è un preciso richiamo a non sottovalutare, prima di tutto, una situazione internazionale molto preoccupante, perché la circolazione del virus nel mondo accelera e non perde in alcun modo potenza. E allora sono ben contenta di salutare per approfondire, per chiarire, per spiegare ulteriormente questo prolungamento, questa proroga del DPCM, la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, che ringrazio di essere nuovamente qui a Fettonotte. Buonasera sottosegretaria. Buonasera, grazie a lei dell'invito. Le chiederò però un grande sforzo di sintesi perché ho tante cose da chiederle, tante domande da farle. Allora, innanzitutto oggi ha sottolineato come prima misura, quella efficace che sappiamo da tempo, il Ministro della Salute, resta l'obbligo della mascherina, però all'aperto, negli spazi all'aperto, no? Non all'aperto, volevo dire, da domani anche in Lombardia, 15 luglio, non è più obbligatoria all'aperto perché ci sia la possibilità di distanziamento, ma sempre negli spazi chiusi, nei negozi, nei centri commerciali, supermercati, eccetera. Sì, anche in Lombardia, dove, come sicuramente lei sa, è stato previsto che si debba mettere all'aperto, se non è possibile, mantenere un metro di distanza, ma insomma questo mi sembra molto improbabile. Bene. È una norma di buon senso che all'aperto non si metta la mascherina. Chiaramente, ecco, finora l'avevamo tenuta qui, per esempio in Lombardia, meno male, almeno questa cosa diciamo è di buon senso. Senta, quali altre sono le misure più stringenti previste da questo DPCM? Beh, per esempio l'obbligo di mettersi la mascherina se si entra in un luogo chiuso, il distanziamento sui treni, la raccomandazione per il lavaggio e comunque l'utilizzo dei disinfettanti per le mani quando si entra nei negozi, quando si toccano eventualmente oggetti, cioè tutto quello che noi conosciamo oggi resta. E resta ovviamente perché il Ministro ha spiegato benissimo, lei ha fatto benissimo a farlo sentire, noi non abbiamo vinto ancora questa battaglia. Ora farò sentire un altro passaggio del Ministro Speranza, sottosegretaria Zampa, perché ha detto c'è il rischio di importare il nuovo coronavirus da cittadini che vengono da fuori o da italiani che rientrano. Sentiamo anche questo passaggio. Voglio inoltre ricordare che per tutti gli arrivi dai paesi extraeuropei ed extra Schengen abbiamo confermato la quarantena di 14 giorni come misura precauzionale per evitare la diffusione del contagio. Particolare attenzione è rivolta in queste ore agli sbarchi sulle nostre coste, con rigorosi controlli sanitari ed obbligo di quarantena per tutti coloro che arrivano. Nessuna sottovalutazione può essere ammessa. Anche questo, sottosegretaria Zampa, questo tema è piuttosto delicato, no? Perché se noi cerchiamo di mantenere un po' alta la guardia, come si dice, continuare ad avere queste attenzioni, queste precauzioni, però c'è il rischio di importazione, diceva il Ministro Speranza. Infatti, come lei sa, è stata preparata e già emanata con un'ordinanza del ministro nei giorni scorsi. Ne parlavamo con lei, sì. Cioè la lista dei paesi da cui non si può più entrare in Italia. Il ministro in realtà e il ministero ha fatto di più, ci eravamo lasciati l'altra sera dicendoci questa cosa, il ministro ha provveduto a inviare alla commissaria Kyriakides una richiesta di coordinamento europeo proprio per evitare che attraverso invece altri paesi si possa arrivare in Italia magari essendo partiti dai paesi della blacklist, cioè si possa girare il divieto di fare ingresso in Italia. Il ministro ha spiegato anche il senso, anche diciamo, che va oltre la norma securitaria. Non significa che noi ci vogliamo isolare dal mondo, significa che noi ci vogliamo isolare dal virus e che nei confronti di quei paesi resta la disponibilità, una massima collaborazione anche nelle indicazioni. Purtroppo l'Italia è stato il primo paese che ha, dopo la Cina, che ha vissuto, sperimentato e abbiamo imparato molte cose, di queste cose noi siamo evidentemente più che disponibili a condividerle anche con i paesi che necessitino di indicazioni. Invece, per quanto riguarda la scuola, è tornato a parlarne il ministro Speranza, sappiamo, no, che sono all'acri preparativi per settembre, visto che i ragazzi dovrebbero rientrare, bambini e ragazzi, a scuola, e ha parlato di monitoraggi e test per il personale, già l'aveva annunciato nelle settimane scorse, e poi anche di ipotesi di test molecolari a campione sugli studenti. Sentiamo anche questo passaggio. L'apertura in sicurezza della scuola è la partita più importante, a mio avviso. Senza la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado non saremo mai completamente fuori dal lockdown. È un appuntamento che va gestito con la massima cautela e prudenza. Dobbiamo tenere un livello di monitoraggio su quanto avverrà nei mesi successivi nelle scuole. Il personale scolastico sarà sottoposto ad indagine sierologica, poi allo studio un modello di test molecolari a campione per tenere sotto controllo la popolazione studentesca durante il corso dell'anno. Ecco, questo sappiamo, no? C'è grande attesa, perché si sa che dopo tanti mesi di chiusura quello sarà un momento cruciale per far ripartire anche appunto un'istituzione fondamentale per la nostra società, che è quella della scuola, sottosegretaria Zampa. Ecco, guardi, io le parlo qui dalla Camera, dove il ministro ha finito, in realtà ci sono già gli interventi dei gruppi parlamentari, e dove lo stesso intervento, grosso modo, che è stato fatto in Senato, ovviamente è stato riproposto ai deputati. Il ministro anche qui molto sottolineato questo punto. Io stesso ho presentato in conferenza Stato-Regioni qualche giorno fa la prima proposta operativa, organizzativa e operativa per i test sierologici che verranno proposti agli insegnanti e al personale non docente. Ma c'è un grandissimo investimento ancora di ricerca, di studio. Lei sa che verranno acquistati i banchi perché devono restare il più possibile distanziati, che si sta ancora lavorando sulle misure di sicurezza. La scuola è stata uno dei punti più delicati. Credo che ci sarà il tempo un giorno di raccontare il dibattito molto sofferto che avvenne al Comitato Tecnico Scientifico quando decisero che bisognava assolutamente andare nella direzione della sospensione delle lezioni in presenza. È stato uno dei momenti più complicati nella decisione, però posso dirle che ogni volta che abbiamo tentato di riaprire il tema, tutti gli esperti, e ce lo dice anche la letteratura internazionale, hanno sempre detto che i 10 milioni di contatti che la scuola porta con sé, nel senso che diciamo muove un mondo, non sono solo gli studenti che vanno in classe, è tutto quello che ci gira intorno. Certo, quando poi rientrano a casa tra i familiari, i in mezzo al resto. Esattamente, certo, questo faceva impazzire, tra virgolette, tutti i modelli che venivano presi in considerazione quando si voleva valutare l'impatto sul Covid di questa eventuale riapertura. Sottosegretaria Zampa, invece, per quanto riguarda la proroga, quindi questa è annunciata oggi dal ministro Speranza, è la proroga del DPCM con tutte le misure che abbiamo detto di prevenzione eccetera fino al 31 luglio, mentre nei giorni scorsi Conte, Presidente del Consiglio, aveva annunciato che molto probabilmente ci sarà una estensione dello stato di emergenza invece fino o al 31 ottobre o al 31 dicembre. Sappiamo che l'opposizione subito si è indignata, ma anche all'interno della maggioranza c'è chi non digerisce molto questa idea. Oggi il ministro della Salute Speranza ha detto che ancora non è stato deciso quando, se eccetera. Che cosa bolle in pentola, se così possiamo dire? Che si sta, che c'è il massimo di interesse. Io credo che sia un segnale molto corretto che viene dato, che è quello di ascoltare, di tenere conto di tutto quello che viene ovviamente da molte parti della società. In realtà nella maggioranza non ci sono state sostanzialmente critiche su questo punto. Però sulle modalità, no? Nel senso, verrà coinvolto guardi, il Parlamento? Voglio dirle una cosa. Ecco, si passerà prima dal no, Parlamento? No, assolutamente, ma potrebbe anche essere che si trovano altre soluzioni, si prendano altre strade. Voglio solo fare un esempio. L'acquisto dei banchi, appunto, avviene in questo momento grazie a dei poteri, tra virgolette, straordinari che sono stati assegnati al commissario Arcuri. Questo non potrà più avvenire. Allora, troviamo un'altra strada? Sicuramente, se si può trovare, si andrà in un'altra direzione. vale anche per altro. Si potrebbe andare in un'altra direzione, diciamo c'è una valutazione in corso. Io credo che sia stato dato un significato che è andato molto al di là di quanto il governo intendeva dare. Voglio solo chiudere lasciando lei e anche gli ascoltatori con un quesito. Ma le volevo fare anche un'altra domanda poi. Sì, il 30 gennaio avesse deciso che lo stato di emergenza veniva richiesto fino a dicembre, nessuno avrebbe detto nulla. Se avessimo chiesto lo stato di emergenza fino al 30 dicembre con 2020, con eventuale sospensione, quindi fine dello stato di emergenza, in caso invece che tutto fosse cessato in tempi più brevi. Ecco, non sarebbe successo assolutamente nulla. Oggi tornare a riproporlo ha assunto un significato che è andato secondo me molto al di là, per cui bene fa il ministro Speranza e bene fa il presidente Conte anche a rimettere l'attenzione e la riflessione su questo punto. Sottosegretario Zampa, per chiudere, Salvini, leader della Lega, dice smettetela di spaventare gli italiani, rivolto al governo, smettetela di tenere chiusi in casa gli italiani che vogliono vivere, lavorare, amare, sperare senza distanziamento sociale. Ministro, rivolto a Speranza, per favore, dia retta al paese, non a qualche pseudo virologo che ha i suoi interessi privati e qualche ministro che non vuole perdere la poltrona. Al di là di questo, proprio per chiudere, sottosegretario Zampa, è possibile che forse sia necessario cambiare la comunicazione? Per esempio Francia e Spagna aggiornano con il bilancio dei contagiati, delle vittime settimanalmente, non giorno per giorno, e poi magari distinguono tra asintomatici e non asintomatici, proprio per chiudere. Anche noi abbiamo sempre distinto tra sintomatici e asintomatici, da settimane si fa così, anzi da mesi si fa così. Ora in realtà i dati sono tutti trasparenti perché il paese ci ha chiesto trasparenza. Penso che Salvini abbia cambiato idea decine di volte, è passato da niente mascherina, sì la mascherina, state in casa, uscite di casa, io sono dell'idea che la salute vada messa in prima fila, senza fare paura alle persone, ma spiegando la verità alle persone. Non credo che ci sia nulla di male nello lavorare perché tutti si diventi responsabili della salute propria e della propria comunità. Yes. Questo è quello che noi chiediamo e questo è ciò per cui lavoriamo. Grazie sottosegretaria Sandra Zampa e buon lavoro allora. Grazie. Grazie a lei davvero. Grazie, buona serata. Piccola pausa come sempre di riflessione, di sospensione, pagina Facebook per i vostri commenti oppure i WhatsApp al 349-238-6666. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto notte, non siate egoisti, ditelo anche a parenti, amori, conoscenti e amici, in modo che a fine giornata anche loro possano essere informati nel modo più possibile e chiaro delle cose più importanti che sono successe in Italia e all'estero, di quello che è successo durante la giornata, e poi la possibilità anche di ascoltare gli approfondimenti con gli ospiti per chiarire ulteriormente gli argomenti. Roberta Giordano naturalmente sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22. Abbiamo parlato lungamente con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa della proroga del decreto del Presidente del Consiglio sino al 31 luglio e poi invece per quanto riguarda l'estensione dello stato d'emergenza ancora la questione è sospesa, però che rimangono alcuni ulteriori aspetti che vorrei chiarire relativi per esempio alle sanzioni che sono tuttora in vigore e con chi ci si può chiarire le idee in merito se non con Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Dottor Laquaniti, buonasera, bentornato. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Allora, intanto specifichiamo alcune cose, che il fatto che sia prolungato il DPCM fino al 31 luglio significa anche che per alcuni aspetti ci sono ancora delle sanzioni. Per esempio, adesso che è tempo di mare per molte persone che ci vanno e quindi c'è più libertà in spiaggia, non si vede nessuno con la mascherina, distanziamenti sembrano insomma una roba remota, però per esempio se qualcuno poi uscendo dalla spiaggia vuole andare verso il bar a comprarsi qualcosa o sul lungomare, che so, c'è il negozio del pane, comunque la mascherina resta obbligatoria, dottor Laquaniti. Resta obbligatoria per tutti i locali chiusi, aperti al pubblico, quindi tutti gli esercizi commerciali, ma ancora di più visto che siamo in tempo di estate. Mio malgrado sono costretto a ricordare che forse il divieto più fastidioso può essere quello relativo all'utilizzo dei veicoli. In moto non si può andare in due se la persona non è ovviamente un nostro convivente. Ancora adesso, dottor Lacolitti? Ancora adesso, perché valgono gli obblighi di distanziamento sociale, lo stesso in macchina, lo troviamo ancora nelle fatte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è scritto molto chiaramente che in auto dobbiamo avere, se ci sono componenti che non appartengono, ripeto, al nostro nucleo familiare, quindi la famiglia può viaggiare tutti insieme, questo è giusto specificarlo. Il problema nasce quando dobbiamo ospitare magari amici dei figli o nostri stessi amici o parenti che non convivono con noi. Valgono le stesse regole del distanziamento sociale, per dirla in modo semplice, che valgono per il trasporto pubblico. Quindi tutto questo fino al 31 luglio, chiaramente. Questo fino al 31 luglio e soprattutto, ecco, ricordiamo, perché i nostri interventi per fortuna sono sempre, posso dire, sempre di meno, perché speravamo di farne sempre di meno. Il problema è che incominciano ad aumentare quegli interventi dove la gente litiga perché si pretende di entrare in un negozio senza mascherina, perché ripeto, la stagione estiva aiuta, quindi qualche episodio antipatico di chi tornando dal mare vuole entrare in un negozio senza mascherina, nascono discussioni spiacevoli che, lo ricordo, poi possono degenerare non solo in sanzioni amministrative, ma in sanzioni penali nel momento in cui dovessero incominciare a volare minacce o peggio ancora arrivare alle mani. Questo è, purtroppo tocca ricordarlo, è giusto ricordarlo. Anche perché poi ci vanno di mezzo anche gli esercenti se i clienti non rispettano le regole, giusto? Gli esercenti, da questo punto di vista, nella stragrande maggioranza dei casi sono giustamente molto attenti, perché ricordiamo che tra le sanzioni è prevista anche la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni, la sospensione della licenza. Quindi giustamente anche gli esercenti chiedono alle forze dell'ordine un aiuto nei confronti di chi non vuole adeguarsi, chi è convinto, magari anche in buona fede, che ormai tanto è tutto passato e non esistono più regole. Da questo punto di vista gli esercenti, sapendo quello che rischiano, dobbiamo dire la verità, sono attenti e corretti. Tra l'altro, le dico quest'ultima cosa, vedo un sondaggio, un'indagine di SVG che dice che in Italia la percezione di contrarre il virus è ai minimi, fa sempre meno paura agli italiani, anche se con il ritorno alla normalità a farsi largo sono soprattutto sentimenti di rabbia e tristezza. Leggo dall'indagine: la percezione della pericolosità del virus dunque è sempre meno diffusa in Italia, non solo gli italiani ritengono sempre meno probabile contrarlo, ma si sentono anche molto meno vulnerabili rispetto al passato, il che naturalmente è pericoloso, visto che cosa sta succedendo in altri stati, in altri paesi, con gli Stati Uniti che ritornano indietro sul lockdown, l'India, l'Iran, insomma, il Brasile, per citare solo alcuni dei principali. Solo per chiudere, Lacquaniti, c'è una curiosità di questo ascoltatore, Marco, che dice: cosa succederà quando l'obbligo della mascherina decadrà, perché esiste una legge del 1975 che vieta il travisamento e che prevede sanzioni pesantissime? Vabbè, una curiosità. L'ascoltatore, se riesce a dare una risposta sintetica, sì. La risposta molto sintetica è: quella norma è inserita in un contesto di ordine e sicurezza pubblica. Esistono però ovviamente delle misure che possono essere prioritarie e ci sono delle eccezioni. L'importante è che non sia la volontà del soggetto, ma soprattutto il soggetto è obbligato a mostrare il volto a richiesta di identificazione degli operatori di polizia. Yeah. Ecco perché si può usare il casco, ecco perché a Carnevale usciamo travestiti, in deroga a quella che è una norma realmente esistente, che ancora esiste, sul divieto di travisamento, che però ha finalità diverse. Comunque, chiaro. Complimenti all'ascoltatore per la conoscenza giuridica. Grazie, dottor Girolamo Lacquaniti. Buona serata. Buona continuazione a lei. Grazie. Cosa cerchi per il tuo business? Le migliori innovazioni, le tecnologie più avanzate e poi connettività, precisione, sicurezza. Perché non pretendere tutto ciò anche dalla tua auto? Con la nuova BMW Serie 3 Touring hai una tecnologia totalmente al servizio del tuo piacere di guidare, per far arrivare il tuo business ancora più lontano. Scopri le nostre soluzioni flessibili su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi per raccontarvi che queste sono ore cruciali, almeno così pare, dato che sembrava che fossero ore cruciali anche già 2 anni fa, per il tema annoso e rovente delle concessioni autostradali. Revoca o no ad Aspi, che fa capo alla famiglia Benetton dopo la terribile tragedia del crollo del Ponte Morandi nell'agosto 2018 con i suoi 43 morti. Una vicenda accelerata per la costruzione del nuovo ponte che dovrebbe essere inaugurato il 29 luglio, tra pochissimi giorni, e la sentenza della Consulta che ha detto che è stato legittimo escludere Aspi dalla ricostruzione del nuovo ponte. Il governo aveva dato l'ultimatum ad Aspi fine settimana dicendo in questo fine settimana fa delle proposte interessanti nell'interesse pubblico oppure revoca, però ancora insomma ci sono diciamo ulteriori vertici, dovrebbe essere in corso una riunione tra Conte e i capi delegazione dei partiti dalle 21.30 alle 22 dovrebbe partire il Consiglio dei Ministri, alta tensione nel governo per posizioni diverse tra PD e Movimento 5 Stelle. La questione però, Barbara Fiammeri, è molto più complicata che dire giustamente chi ha delle gravi responsabilità deve pagare, no Barbara? Sì, la situazione è complessa e non a caso dura da 2 anni questo balletto, anche abbastanza penoso devo dire, visto la posta in gioco. Allora, è chiaro che viene facile dire che la revoca della concessione sarebbe la strada più lineare, però appunto la concessione prevede tutta una serie di cose e essendo un contratto vero e proprio potrebbe arrivare in giudizio e quindi potrebbero scattare delle penali. Allora, che lo Stato dovrebbe pagare, si parla di miliardi qua, no? Si parla di miliardi. Già adesso il governo ha modificato le penali in caso di revoca riducendole da 23 a 7 miliardi, ma comunque 7 miliardi, se oggi decidono la revoca, vanno trovati 7 miliardi da dare ad Atlantia. In un momento già così complicato, diciamo, economicamente. Stiamo discutendo di un nuovo scostamento di bilancio di 15-18 miliardi, diciamo che la metà li diamo ad Aspi. Non è che è una cosa che si discute, questa è una certezza. In più ci sono migliaia di posti di lavoro anche in ballo, no? Sì, ma oltre ai posti di lavoro sappiamo, perché oggi è uscita anche questa lettera che la ministra dei trasporti Di Micheli aveva scritto a Conte a marzo, 14 o il 13 marzo, non ricordo, in cui sostanzialmente lei riportava il parere dei legali del Ministero che dicevano che non era affatto scontato di vincere l'eventuale ricorso, la causa con Aspi, che il rischio di dovergli pagare poi tutti e 23 miliardi era molto elevato. Inoltre c'è la questione che dicevi tu, cioè quella dei dipendenti che diventerebbero, in caso di statalizzazione tra virgolette di Aspi, comunque un po' come è successo con l'Italia, cioè ci dovrebbe essere un sostegno pubblico e per dire insomma l'ultima cosa, ma rilevantissima per quello che stiamo vedendo che sta accadendo in questi giorni in Liguria, tutti gli investimenti che sono stati programmati da Aspi, cioè la realizzazione di una serie di opere, per esempio la Gronda di Genova, per cui sono stati già previsti degli accantonamenti miliardari anche qui, di fatto o li mette lo Stato quei soldi oppure in qualche modo quegli investimenti si fermano. Chiaro. Barbara, tutto però questo in un momento che invece difficile. Noi vorremmo rilanciare gli investimenti vista la gravissima crisi che ci troviamo ad affrontare a seguito del Covid. Barbara, però se da una parte c'è chi ha una probabilmente, poi anche i magistrati lo dovranno certificare, ha una gravissima responsabilità rispetto a quello che è successo, 43 morti, il crollo, e dall'altra parte però diciamo si è in qualche modo così vincolati perché si rischiano penalità di miliardi, si perdono posti di lavoro eccetera, c'è qualcosa che non va nella stesura di certi contratti, nella giurisprudenza, non so come dire, che cos'è, qual è il vulnus in tutto questo? Certamente queste concessioni, il sistema delle concessioni come era stato pianificato, regolato in precedenza, questa è una concessione del 2008, è sicuramente più a favore diciamo del concessionario che del concedente, cioè che dello Stato. Su questo non ci dobbiamo, ma l'abbiamo visto anche sul fronte delle tariffe, cioè di fatto noi abbiamo assistito ad anni in cui le tariffe aumentavano e poi vediamo che gli investimenti in realtà appunto cioè abbiamo Mezza Italia che ha adesso lavoro in corso, perché gli investimenti in realtà erano latitanti. Quindi si è permesso ai concessionari, non solo ad ASPI, ma in generale ai concessionari, di potersi giovare di un regime decisamente vantaggioso, a loro favorevole. Questo molto è vantaggioso. Veramente paradossale. Questo regime è stato modificato, ad esempio quello sulla tariffa. Oggi un eventuale aumento si prevede nell'accordo, nella proposta fatta da ASPI al governo c'era, tra le altre cose, anche l'accettazione del nuovo sistema tariffario, che prevede appunto che il concessionario non può più procedere ad aumenti se non quando quando promette di realizzare investimenti. Ma quando li ha già realizzati e poi aumenta e poi prevedeva anche una riduzione delle tariffe attuali. Però, insomma, detto tutto questo, il governo si trova in una situazione complicata, ovviamente, non capisce. È facile. Attendiamo. Però mi sembra che ci sia anche molta, come voglio dire, cioè io capisco che non ci si può sedere al tavolo con chi, però, insomma, ritieni che sia il responsabile, il responsabile di quello che è avvenuto a Genova 2 anni fa. Però è evidente che c'è una responsabilità che è penale, cioè personale, e poi però c'è una parte che è... Vabbè, attendiamo comunque, Barbara, chiarissimo quello che ha spiegato il CDM, vediamo se è la svolta definitiva, anche se appunto la questione, come hai spiegato, è molto complicata. Grazie Barbara Fiammeri. Ciao cara Barbara, mentre il nostro Dario Ricci adesso ci dirà brevemente la partita Atalanta-Brescia, come procede, anzi è iniziata da pochissimo, Dario, 10 minuti. Siamo non minuto, ma già sull'1-1, Atalanta in vantaggio al secondo minuto con Pasalic, prova a incunearsi in area e poi è arrivato proprio pochi istanti fa l'ottavo di gioco, il pareggio di Torregrossa che ha sfruttato un errore della difesa atalantina. Siamo al decimo minuto, ma sicuramente già si è giocato, Roberto, e vado a chiudere il minuto più importante di questa sfida, che è stato il minuto di silenzio prima del calcio d'inizio per commemorare le tante vittime che tra Brescia e Bergamo ha mietuto il coronavirus. Due squadre, due città che, come ben sappiamo, sono divise da una storica rivalità, ma che si sono trovate unite e anche più vicine nella partita comune contro il Covid-19. E anche a loro ulteriormente dedichiamo Vincerò. Grazie Dario Ricci. Ciao Dario, alle 22 ci sentiamo.